בלו טיים. בלו טיים. בלו טיים. Da pochissimo, passate le 21 di questo ultimo giorno del mese di ottobre. Buonasera da Agostino Spolaore, buonasera anche dal mio compagno fedele, consueto, sempre presente. Ciao, staccano vista. Buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Maurizio Calzavara. E buonasera, dicevo, da Blu Radio Veneto, questa è la vostra emittente preferita, tra virgolette, in questo momento, perché la state ascoltando e se siete in ascolto tramite Etere e siete sintonizzati nelle frequenze di 88 e 700 e 94 e 600 MHz praticamente per la zona di Venezia. Mentre se state ascoltando in streaming, siete collegati ovviamente con il nostro sito, cioè www.bluradioveneto.it e lì ci potete ascoltare 24 ore su 24, e poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Prisco, che è il nostro direttore artistico, che cura appunto quasi tutti i live, insomma, compreso quello di questa sera. Questa sera abbiamo, per il momento, abbiamo una telefonica, sarà una lunga serata di musica ovviamente, e però prima di parlare degli artisti che subentreranno alle ore 22 circa, abbiamo una telefonica, come dicevo, abbiamo una persona carissima, un disco molto bello, si chiama Gioele Valenti, cioè Herself. Ciao Gioele, ci sei? Ciao, ciao. Benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie. Buonasera Gioele, come stai? Buonasera, bene? Ciao. Bene, bene. Beh, il disco è molto bello, quindi stai assolutamente bene in ogni caso. Il disco no, è molto stasera, bello. Stasera ho un mal di schiena pauroso. Hai mal di schiena, però... Com'è il tempo lì, Gioele? Ma guarda, per buttarla proprio sul tempo, il tempo in Sicilia è folle. C'è un tempo da tormenta, però in realtà l'aria è abbastanza calda. Quindi insomma una serata un po' particolare. Dove sei localizzato? Io sono a Palermo. Palermo. Io ho visto Alcamo, una città splendida. Ah, Alcamo, sì. Sono stato l'anno scorso per qualche giorno lì anche a Castellammare sul Golfo, che è bellissimo. Ah, Castellammare è una meraviglia, sì, sì, concordo. Maurizio. Bene, Gioele, Herself in arte, quarto disco, quindi ne hai fatto di strada, non è mica il primo disco, è un quarto disco molto interessante, un po' diverso dagli altri, una direzione che hai preso, una direzione giusta secondo me, di un folk, non proprio, un folk un po' particolare, un po' psichedelico possiamo dire, qualcuno ha citato Donova, qualcuno ha citato il Donova però psichedelico, il Donova degli anni degli 65-66, sì. Il Donova indiano secondo me. Sì, Donovan mantrico. Mantrico, proprio hai detto giusto, mantrico. Il tuo disco è mantrico in alcuni momenti, assolutamente mantrico. Ma guarda, chi conosce il mio cursus... Quarto disco, quindi ne parliamo del tuo passaggio a questo album. Cioè. Dunque, guarda, io sono sempre... cioè, ho guardato sempre a una produzione abbastanza scarna e abbastanza lo-fi. Un po' per una questione, diciamo così, di approccio personale alla musica, molto spartano, un po' anche per penuria di mezzi, ecco. Quindi ho dovuto sempre far di necessità virtù, non essendo mai stato un ragazzo particolarmente ricco, e quindi questa cosa mi ha sempre, diciamo, portato verso questo tipo di direzioni. Quest'ultimo disco ha sicuramente una dimensione un po' più collegiale, perché rispetto ai precedenti, che me li sono sempre un po' cantati e suonati totalmente da solo, in questo disco c'è la presenza di Aldo Ammirata, carissimo amico. Un basso con un grosso basso che sì, gli dà una spinta non da poco nell'album. Un grasso basso. È un grasso basso, sì. Esatto, e poi c'è... insomma, lo zampino di Amori Cambiati. Mi devo alzare in piedi allora adesso, insomma, è un personaggio di grandissimo valore. Beh, alziamoci. Alziamoci. Okay. effettivamente, poi una serie di amici come Marco Campitelli della Deambula Records, che ha messo qualcosina qui e là, oppure Toti Valente, Piero Vizzini alla batteria, insomma, è un disco che vede un po' più di gente in azione rispetto alle mie solipsistiche tormentazioni, si può dire tormentazioni? Sì, si può dire tormentazioni, però erano tormentazioni molto interessanti, molto accattivanti, queste sono un po' più ampliate, volutamente ampliate, che tu giustamente hai detto, volevo fare gruppo cercando di procedere in direzioni leggermente differenti. Sì, Sì, sicuramente, guarda, in questo disco c'è paradossalmente un certo ritorno al classicismo. Sì. Perché io, tu hai citato Donovan. Sì, perché Donovan, io ho una certa età, caro Gioele, sono molto più vecchio di te, e Donovan mi è rimasto dentro, assolutamente. Il Donovan che amo è quello indiano, non soltanto quello indiano, ma quello un po' particolare, azzigogolato. Ma guarda, rimanendo in tema di indiani europei, ecco. Indiani europei, sì. Guarda, sicuramente... Io direi anche Van Morrison. Esatto. Direi anche i The Waterboys. Direi... Tu hai citato delle personaggini che proprio hanno appena suonato da poco. C'è un suono più, sicuramente una ricerca più europea rispetto ai miei dischi precedenti. Però il Donovan ci sta, effettivamente ci sta a pennello, se non altro appunto in quel tipo di ricerca spirituale, se vuoi. Sì, qualcuno ha parlato di Canterbury. Io ti vedrei un po' vicino a Paul Roland. Te lo ricordi Paul Roland? Certo, Paul Roland. Paul Roland, secondo me, c'ha qualcosa. Tra l'altro è uscito da pochissimo un'ultima cosa di Paul Roland, molto, molto. Finalmente, era un sacco di tempo. Noi vecchi fan siamo soddisfatti. Paul Roland, secondo me, è un personaggio di grande valore. Grande spessore, non è che sia poco amato, è lui che si fa poco amare, secondo me, in alcuni momenti. Però, ritorniamo alla strada nostra. Quindi il tuo disco ha queste influenze, a queste idee, soprattutto idee che tu hai sviluppato dopo, chiaramente. Sì, sostanzialmente, guarda, io lo considero come una naturale evoluzione, ma questo è un po' il vezzo forse di qualunque artista. Lo sento un po' come una naturale evoluzione di un certo tipo di suono, e forse anche un po' la riscoperta delle origini dei miei ascolti che ti ho un po' citato. È un disco, non saprei definirlo, cioè non riuscirei a categorizzarlo. Ho visto, fino a guarda qualche disco precedente, si sprecavano negli accostamenti a gruppi come Sparkle Horse. Beh, non è mica un brutto accostamento. No, cioè, no, assolutamente no. Io ho sempre rispettato Mark Linkus, però paradossalmente io ho incominciato a venire a conoscere Mark Linkus dal momento in cui lo citavano come... così, come referente rispetto alla mia musica. Io musica. Non neanche lo conoscevo. No, e poi ti sei però documentato. Poi mi sono molto molto interessato, parzialmente innamorato del personaggio tragicamente scomparso. Certo. E sì, ecco, insomma, c'è un po' di questo e un po' di quello. Gioiele, apriamo la finestra come sempre. Abbiamo scelto il primo pezzo dell'album. Perché ho scelto il primo pezzo? Perché secondo me il primo pezzo c'è il Gioiele un po' più antico, un po' più vecchio, il Gioiele di una volta, secondo me. Sei d'accordo? Sì. Assolutamente. Allora l'ascoltiamo e poi ne parliamo, Gioiele, va bene? Ok. Strangler Was Me, El Self. Thank you. Blue Time. Blue Time. Blue Time. Sì, un pezzo molto bello secondo me, un affascinante morboso qualcuno ha scritto e ha perfettamente ragione Joelle. L'affascinante sì, ma c'è qualcosa di dubbioso, c'è qualcosa che ti entra, malinconico, ma un malinconico molto dubbioso secondo me. Ma guarda, affascinante e morboso sono due, hanno molto in comune per certi versi. Ma anche l'uso della voce, l'ambientazione musicale, l'intreccio, questa chitarra che pennella lentamente e fa entrare la tua voce, poi sembra allontanarsi, poi ritorna. È molto interessante secondo me come costruzione, Joelle. Beh, guarda, io credo che questo pezzo qui sia molto, rispecchi molto bene quell'ambito di classicismo a cui facevo riferimento all'inizio della telefonata. Ecco, questo lo sento un brano molto, molto classico, con qualche spinta in avanti, se non altro come rappresentazione proprio tipicamente audio stereofonica, se lo senti in cuffia, senti, vabbè, lì poi entro in un tecnicismo maniacale che fa parte di quella morbosità di cui si parlava prima e quindi non mi spingo oltre in questo senso, però sì, ne hai dato una buona rappresentazione. Sì, e poi a proposito di questo, io voglio sapere velocemente quanto ci hai messo a costruire questo pezzo e a calibrare perfettamente i momenti. Ma guarda, ti spiego, in realtà molto tempo, ma per un limite tecnico. Cioè, nel senso che io questi brani, che sul disco ci sono parecchi brani che suonano in modo non troppo pulito, esatto, come questo, certo. E in realtà sono brani registrati con un quattro piste della Foster. E quindi insomma si parla di un macchinario analogico antico, una certa età. Quei ragazzi mi hanno detto sì, ma è molto vecchio, è molto vecchio, esattamente. Quindi in realtà il lavoro è stato, cioè il lavoro è andato appunto nel senso di riuscire a contenere quanto di sporco ci fosse, non ovviamente non snaturando l'espressività del brano, quindi ci ho impiegato un pochino di tempo rispetto agli altri. Bene, però è il tempo impiegato, secondo me, ottimamente, perché il pezzo d'apertura dà un certo senso, anche se poi il disco è chiaramente leggermente diverso, ti allontani da queste atmosfere, però volevi far capire a chi conosceva già i tuoi dischi precedenti che sono ritornato. Beh sì, qualcosa di molto simile. Ecco, sono ritornato. Poi andando avanti nel disco ho trovato un pezzo meraviglioso che mi ha fermato tecnicamente e te lo dico subito, si intitola Tempus Fugit, quello mi ha fermato completamente, ma sono stato emozionato a sentirlo, è una cosa che non avevo mai, cioè una psidelia in 4 minuti praticamente. Sì, ma guarda, quel brano ha un valore affettivo particolare perché insomma è dedicato alla mia amorosa, sì. Quindi sostanzialmente credo che sia intriso di questo spirito. E, beh, che dire, insomma, sì, non posso che concordare, però voglio dire, insomma, quello che penso io in questo senso ha un limite oggettivo. E poi tu hai calcato dicendo dagli occhi fiammeggianti che esplodono una stella cadente che è un aereo che precipita. Sì. Proprio andato... Questo è tipico proprio del mio pessimismo cosmico. E poi un'altra bella cosa, guidare tra campi di grano di notte con 40 gradi. Questo è assolutamente autobiografico, è reale. E beh, e anche la costruzione sonora è molto interessante, se me la spieghi. Non è semplice, è un pezzo di 4 minuti, poi c'è una reprise un po' più avanti, leggermente diversa, un po' più tosta, quella un po' più tosta. Ma è piaciuto molto questa prima risoluzione del pezzo. Come l'hai costruito questo intreccio? Molto molto accattivante, molto... Ma guarda, la cosa è assolutamente casuale, perché io avevo... E c'è un violoncello che di Aldo ti dà un certo spessore, un grande spessore. Allora guarda, quando io ho fatto sentire il brano ad Aldo, per quel poco che di solito mi ritaglio di autorevolezza, io gli ho chiesto proprio, lavora un po' nel senso del gotico, no? Esatto, sì. Esattamente, e lui ha sposato perfettamente la mia idea e ne è uscito fuori questo brano che è insomma un po' la summa di tutte le cose che ci stanno dentro, e quindi c'è una forma di classicismo acustico, di finger picking di tipo proprio quasi pre-war, se non ovviamente con componenti profondamente indie rock anni 90. Quindi insomma è un po' una miscellanea di tutte queste cose attorno ad uno scheletro di sensazionalismo naif. Io. È bello, vedo una cosa, ripeti la frase sensazionalismo naif, è vero, è perché è sensazionalismo nel senso che muove l'ascoltatore, naif perché nello stesso tempo è ancora naif, cioè abbastanza scheletrico nonostante. Sì, è scheletrico e poi si diverte a dare delle pennellate e dei contrasti abbastanza accesi anche rispetto appunto al testo e alle liriche in genere. Questo testo dedicato all'amorosa, all'amata. Allora sentiamo Tempus Fugit, un pezzo molto bello, a mio parere il pezzo migliore, sono tanti belli anche gli altri, ma a mio parere è il pezzo migliore dell'album. Adesso lo sento. Don't you come? Blue Time. Blue Time. Blue Time. Siamo sempre in diretta qui a Blu Radio Veneto con Gioele Valenti in Arte Herself. Questa è Blu Radio Veneto, la vostra emittente. Dicevo, vi ricordo anche i nostri numeri telefonici, quelli in studio è lo 049 875 6423, mentre se volete mandarci qualche sms, perché no, siamo ben felici di leggerlo anche al nostro Gioele che è in diretta telefonica in questo momento, cioè vi ricordo il 346 23 20 033. Questa è la voce di Agostino Spalore, ma c'è soprattutto Maurizio Calzavara che sta cercando di scoprire il più possibile il mondo musicale di Gioele. Due chiavi di lettura di questo pezzo, Gioele, secondo me. La prima chiave di lettura è la chiave di lettura tenebrosa, l'inizio, la parte quasi iniziale fino al centrale del pezzo. Poi c'è un mantra finale solare, totalmente diverso, Gioele. Sì. E quello mi ha incuriosito al massimo, ma proprio hai toccato Paul Roland e sei arrivato a Donovan. Sì, sono arrivato a Donovan, ma credo di essere arrivato anche a Bill Callan. Che sono tutta gente che da Donovan hanno preso. Esatto, piuttosto che a Michael Jaira, eccetera. Esattamente. E, sicuramente, guarda, io ho una passione sfegatata per la reiterazione. Mm-hmm. Ecco, probabilmente ho anche, diciamo, preso un po' di tarda eredità post-rock. Mm. E, sicuramente c'è questo tipo di connubio in questo pezzo e io adoro proprio riuscire a tenere due note per sei ore di seguito. Come si usava una proprio, volta allora. È proprio una mia mania ed è una cosa che si ritrova, diciamo, a grandi linee anche disseminato nei lavori precedenti, questa forma di insistenza, perché secondo me l'insistenza appunto ha quel valore mantrico reiterativo, esatto, che ha anche un valore culturale di rottura in una, e non solo di scatole, dico anche di rottura di segno, ecco, voglio dire, ha questo valore culturale molto forte rispetto a un panorama che va sempre di più verso la massificazione pop, ma quello ovviamente, insomma, quello è un discorso più che altro antropologico. Mm. Che peso ha avuto Gioele Amurai Kambuzat nella stesura del disco? Non so, ti ha dato una mano in un pezzo? Due. No, in realtà guarda, Kambuzat ha curato il mastering del disco ed è stato gentilissimo, perché così insomma è nato questo rapporto e posso anche fregiarmi, diciamo, della sua amicizia, perché è nato un bellissimo rapporto, e sostanzialmente lui è stato ospitato in un paio di brani. Non ha dato i suoi consigli, nel senso positivo? Perché il nostro rapporto non è nato nel senso della sua produzione, diciamo, cioè lui ha curato più che altro alcuni aspetti tecnici, anche se io sarei stato ben felice che lui mi desse dei consigli per la stima che ho nei confronti di Kambuzat, che tra l'altro mi ha anche influenzato moltissimo con i dischi degli Ulaanbaatar. Certo, io certo. Sono sostanzialmente un fan degli Ulaanbaatar, quindi sono stato onoratissimo, però in realtà la stesura del disco è avvenuta esattamente come per gli altri dischi, me li sono un po' stesi io in cameretta. L'hai costruito anche questo nella tua camera praticamente? Sì, sostanzialmente sì, perché guarda, a parte una puntata in studio di registrazione, che ci siamo permessi giusto perché ho vinto un contest e quindi ho vinto il vil denaro da poter da poter investire in studio, poi in realtà il disco anche questo è sostanzialmente per il 70% un disco fatto a casa, proprio fatto a mano. c'è difficoltà a proporre un disco di questo valore, Gioele, nei cosiddetti locali in giro, nei festival, nelle rappresentazioni? Ma sai, guarda, molto meno di quello che credessimo, perché in realtà siamo stati invitati a suonare, una cosa rarissima. Tra l'altro io porto il disco in giro sostanzialmente con Aldo, siamo duo nudi e crudi, con chitarra acustica e violoncello e campionamenti, e in realtà è un format che viene molto gradito dai locali, perché ultimamente insomma c'è questa corsa, diciamo, all'intimismo e anche alla riduzione dei volumi, la riduzione progressiva dei volumi, perché i locali spesso hanno problematiche inerenti a questo aspetto molto pragmatico delle cose, diciamo. Preferisco un acustico anche un po', non dico movimentato, ma strano nel senso positivo, esatto, del termine, come il tuo, insomma. Sì, sì, sostanzialmente sì, c'è una vocazione sperimentale però su una base assolutamente classica, se vuoi. Vocazione sperimentale. Cosa mi dici di questo pezzo durissimo dal punto di vista del testo, durissimo, abbastanza che va dentro in profondità? Violence is for the leaders. Quello va molto, sì, in profondità. Sì, ma guarda, questo è un testo venuto fuori sostanzialmente da un catap letterario, come d'uso comune nelle mie tue cose. Esattamente. Cioè, di fatto io sposo più piani letterari, li butto inizialmente un po' a caso e poi ne esce fuori un filo conduttore. In realtà, insomma, è un po' un brano metaforico di quello che è di come viene percepito il potere politico in questi tristi e bui giorni e quindi la violenza sicuramente, cioè, poi c'è un po' un gioco semantico per cui significa violenza sta per leader o comunque la violenza è per il leader, quindi c'è questo doppia chiave di lettura sposata poi a un insieme di visioni più o meno magiche e più o meno psichedeliche. Ecco, quindi appunto, anche questo pezzo è molto più simile al brano di apertura che hai mandato. Esattamente, visto che è simile al brano di apertura, ho scelto anche questo, adesso lo sentiamo assieme e okay, poi ne parliamo, ok? Allora. Vai. Gioele, ci senti? Sì. Benissimo, ecco. Un pezzo ancora molto bello secondo me, questa melodia che viene tirata fuori, non dico per i capelli, ma viene tirata fuori, però è circondata da un alone di oscurità secondo me, leggermente di oscurità, non so se sei... Beh, non sì, è un pezzo dark, assolutamente no, però c'è questo continuo dondeggiare, questo continuo andare verso momenti non prettamente solari, però la melodia viene fuori e questo è importante. Chitarra e voce solamente o quasi. Sì, sostanzialmente guarda, questo è una è un'alchimia abbastanza riuscita di quello, almeno secondo ovviamente il mio. Però mi senti, sì? Sì, sì, certo. Sì, no, io ho avuto un fastidiosissimo ritorno, non sentivo più nulla. No, dicevo, questa la ritengo, secondo diciamo la mia visione estetica, la ritengo un'alchimia abbastanza compiuta di quello che è un pezzo arrangiato appunto per sola chitarra e voce o poco più. Era proprio quello che cercavo e mi è piaciuto riuscire a dirlo in pochissimo tempo, perché poi il brano ha un afflato, se vuoi, anche pop. Sì, però sì, esatto. Potrebbe essere un singolo, tra parentesi, esistono ancora i singoli, possiamo concepirlo così. Esistessero i singoli, perché io ho mangiato pane e singoli in vita mia. Quali singoli? Facciamo. Vabbè, no, dico singoli ovviamente storicamente. Quello di Cure, parla, per esempio. Esatto. Vedi. No, io proprio adoro, poi tra l'altro io ho adorato sempre il vinile, no? Cioè, quindi io non solo ho adorato, ma io ho anche odorato il vinile. Perché il vinile, perché si odora, giusto? Hai detto una cosa, si odora il vinile, quelli nuovi appena comprati, vedi? Esatto. Che c'era proprio una certa modo di aprire il vinile, il disco di vinile. Aveva un rito che è ancora non è defunto, assolutamente no, è ritornato su. Dimmi. Dei tirannosauri. Esatto, è bellissimo. Aprire un disco vinile appena comprato ha un certo fascino. Sì. So se i nostri amici qui in studio sono d'accordo. Ha un certo odore, è vero, c'è poco da fare. Hai detto una cosa giusta, Gioele. C'è un certo odore. È così. E l'odore è ritornato finalmente, perché i vinili sono ritornati. Sì, sono ritornati, ma non sono quelli di una volta. Lo so, non sono quelli di una volta, però ci dobbiamo accontentare, Gioele. Dai. La tecnologia ha impastato anche il vinile, nel senso, non prontamente positivo, però insomma, sono ritornati i vinili. Beh, a proposito di vinile, potresti avere l'idea anche di stamparlo in vinile, un disco simile? Ma guarda, sì, sarebbe bello, ma questo bisognerebbe ovviamente chiederlo alla casa discografica. Cioè, citiamo la casa discografica, no? Che abbiamo citato solo all'inizio. Dai, chiediglielo, perché mi farebbe felice. Vabbè. La produzione, hai fatto praticamente tutto te? La produzione, sì. Esattamente. Sì, è così. Sì, sostanzialmente ho fatto tutto io, a parte tre brani che sono stati registrati in studio, presso i quali, cioè diciamo nel contesto dei quali sono stato assistito da Toti Valente, che era appunto il padrone dello studio, nonché il Deus Ex Machina appunto degli strumenti tecnici, e per il resto sì, sostanzialmente è un disco di produzione spartana tua, praticamente. Ma sì, non spartana nel senso negativo, spartana vuol dire hai risparmiato economicamente tutto. No, assolutamente, perché io, a parte che io ho questo tipo di filosofia, secondo me devi tirare fuori dai mezzi che hai a disposizione il massimo, senza poi guardarti troppo indietro, perché è chiaro che un disco poco prodotto da un punto di vista di suono ovviamente ha delle chance minori rispetto a tutto quello che c'è in giro. Certo. Però è un po', insomma, una sorta di cifra stilistica di Herself che, insomma, che non è cambiata nel tempo. Dal punto di vista dei musicisti, oltre ad Aldo, chi ti ha dato una mano? Sì. Allora, Aldo... Ammirata. Basso e violoncello, cosa meravigliosa. Sì. Tra l'altro, bravissimo e sensibilissimo musicista, e oltre a lui in studio due batteristi in due brani, sono appunto Toti Valente e Piero Vizzini, e poi per il resto, insomma, ci siamo fatti... Siete arrangiati. Tutto. Sì, ci siamo arrangiati. Esattamente. Però. Bene, ho letto nella biografia che hai suonato, ti sei avvicinato a gente come Dinosaur Junior, non mica male il discorso. Beh, più che avvicinato, guarda, io sono stato chiamato ad aprire il concerto, l'unica data italiana di un paio di anni fa al Leipzig Rock. Insomma, sono stato invitato a suonare, ho aperto il loro concerto. Non è che mi sia avvicinato più di tanto, perché mi sembravano dei personaggi lontano, anche abbastanza inquietanti. Quindi diciamo che... Il leader com'è inquietante ancora, come una volta? Ma insomma, abbastanza inquietante. No, nel senso che comunque, per carità, sono anche delle persone tutto sommato abbastanza semplici, però circondate da quell'alone di misticismo indipendente anni 90, che comunque a me crea un po' di di soggezione, quindi insomma alla fine li ho guardati così, insomma, con gli occhi del cuore. Del cuore. Poi hai partecipato, hai suonato assieme, ci sono stati Giardini di Mirò. Sì, ho fatto, ma sì, questi sono stati un po', diciamo, i miei warm-up, esatto. Negli anni, anche Jennifer Gento, sì, ho aperto, esatto, i concerti dei Verdena, che tra l'altro il cui batterista Luca ha prodotto artisticamente, ha patrocinato i miei primi dischi. Citiamo, Joelle, visto che ci siamo, i titoli dei primi dischi tuoi. Ah sì, allora, il primo disco per Gestre è God is a Measure, e poi c'è Homework. Rispettivamente il disco rosso e il disco bianco, così. Red album e white album. Perfetto. E poi sei approdato a un'altra etichetta e sei approdato qua. Io ho scelto un altro pezzo che secondo te vorrebbe essere una canzone di rivolta civile. Pensi dei Way, che è un pezzo invece musicalmente non è così cattivo, assolutamente no. Questa diversità tra la musica e il testo. Ma guarda, questo è proprio, credo che sia il mio cavallo di battaglia, cioè nel senso che io credo che ci sia molta più soggezione in un accostamento così discrasico tra testo e musica rispetto ad altre cose molto più eminentemente violente. Per farti un esempio, ci sono certe cose di Leonard Cohen, certo, che pur nella dolcezza sono sostanzialmente devastanti. Sì. E quindi, diciamo, questa è un po' la ricerca, la mia personale ricerca. Obiettivamente non è niente di preconfezionato o voluto, però in realtà mi viene abbastanza naturale gestire accostamenti un po' così, su un po' in dislivello. Esattamente. Ecco. Adesso sentiamo allora la traccia numero 9, pardon, Pace It Away. Thank you. Ci senti, Gioele? Sì. Certo. Ah, un critico ha scritto una cosa meravigliosa su sto disco, su sto pezzo, il caracollare soffice. Bello, meraviglioso. È un finale noise, ci ha messo un piccolo finale noise, ci ha messo. Un piccolo finale noise, qualche secondo. E dà proprio l'indice della, come hai detto giustamente, il testo e la musica, la contrapposizione. Questo caracollare soffice e il suo finale noise. Bello, bello, mi fa molto piacere. Questo soffice declino, questo declino, come poterlo definire? Guarda, non so, comunque sì, caracollare soffice. Non bello, è bello, poi c'è questo piano che si rincorreva, queste note che si rincorrevano continuamente. E poi il noise, che non dà il taglio, però dà un qualcosa di dubbioso, come un noise ti hai messo. Insinua, possiamo dire. Ricordiamo i tuoi dati, Gioele, per poter avere il disco, il tuo sito ed altre cose. Sì, guarda, il disco è ordinabile presso deambularecords.com, che è appunto il sito della Deambula, oppure attraverso il mio sito personale self.altervista.org. Oppure attraverso Esit Cobra Digital, che è appunto l'etichetta di Amori Cambiusà. Esattamente. Il disco è, cioè, si può trovare nei portali che tu hai detto, ed è consigliabilissimo, cari ascoltatori, è consigliabilissimo secondo me. Disco veramente, io ve lo consiglio. Io sì, io lo consiglio, perché merita. Hai fatto un ottimo prodotto, grazie. Gioele, c'è poco grazie da fare. Grazie mille. Abbiamo quasi finito, Gioele, ci dispiace, sì. Abbiamo fatto quasi 50 minuti di conversazione piacevole con te, ti aspettiamo, sì. Non si sa mai nella vita, qualche volo pindarico verso Padova in concerto live, qui davanti a noi con la chitarra, può essere. Sì, guarda, spero proprio di sì, tra l'altro c'è in programma, adesso io parto per un tour. Dimmi le date, se hai qualche data. Guarda, molto velocemente centro Italia, quindi faremo Pescara, Lotto. Il 9 Giulianova, il 10 Lecce, poi il 20 a Palermo, il 20 proprio il giorno prima dell'Apocalisse, il 20 dicembre, esatto, sì. sarà la colonna sonora dell'Apocalisse Maya. E poi sostanzialmente in marzo probabilmente saremo forse dalle vostre parti. Se sei dalle nostre parti, l'indirizzo lo sai, e quando vuoi, una chitarra e una voce non si scorda, non si concede a tutti i musicisti, assolutamente. Non si rifiuta. Non si rifiuta mai, quindi assolutamente. Guarda che ti hanno sentito tutti, però, è una promessa questa. No, guarda, io è parecchio che voglio venire dalle vostre parti, spero che si possa realizzare la congiuntura adeguata. Vieni qui, ci fai un bel live con la tua musica in diretta, assolutamente. Quindi. Oh, grazie mille. Cioè, comunque, le porte sono sempre aperte per te, Gioele. Perfetto, grazie mille, siete stati molto gentili. Terminiamo con l'ultimo pezzo dell'ultima traccia, How You Kill Me, una traccia con un testo un po' particolare, con un basso che proprio entra dentro alle viscere, c'è poco da... Ecco, lì c'è Cambiusà, è presente, molto Cambiusà. Esatto. Grazie, Gioele. Grazie a voi. Ci sentiamo alla prossima. Alla prossima, Gioele. Ciao. Ciao, grazie. Ciao. Allora, ci ascoltiamo l'ultima traccia. Certo. How You Kill Me. Esattamente. Gioele Valenti in arte, Earthself. Was taken apart in the spark of May. We never returned. She got back on her way. It's a matter of something you give out to everyone. A knife like a treasure. Stick in your mouth, you can show to your wife, there's a difference. is a story tale. He's an ancient Greek. Everything that you can to let me know something.